Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis e benvenuti a Mr. Kilowatt. Ebbene, nelle case degli italiani, come è noto, si consuma moltissima acqua in bottiglia. Vi chiederete cosa c'entra questo con risparmio energetico. C'entra perché un litro di acqua in bottiglia ha un costo energetico molto elevato rispetto al prodotto utile che ci mette a disposizione, appunto un litro di acqua o due. Questo costo non è solo un costo ambientale, è abbastanza ovvio questo, ma è anche un costo in termini economici. Infatti siamo noi a pagare i costi di imballaggio, di imbottigliamento e di trasporto. Ma allora perché non ci beviamo l'acqua del rubinetto? Perché non ci fidiamo, temiamo che sia troppo calcare oppure che sia più o meno inquinata. Ecco allora che ci viene in aiuto un semplice kit per analizzare l'acqua di casa e decidere se per caso non possiamo proprio berci quella. Il kit sta per arrivare sul mercato ed è realizzato da FEM Ambiente, uno spin-off dell'Università di Milano Bicocca. In linea con noi c'è appunto un ricercatore della Bicocca, Massimo Labra, che ha partecipato al progetto. Buonasera Labra. Buonasera. Allora, ci spieghi subito che cos'è questo kit, insomma, come si presenta e che cosa va a verificare, che cosa cerca dentro l'acqua di casa. Esatto, allora questo kit è un sistema molto semplice, molto rapido, adatto veramente a tutti. Noi l'abbiamo testato a partire da delle scuole, delle classi di bambini, delle scuole elementari, di seconda, terza elementare, e permette di misurare i parametri più significativi legati alla qualità dell'acqua, ed in particolare sono la durezza, il pH, i solfati, i cloruri e i famosi nitrati e nitriti, di cui si parla moltissimo in questo momento, diciamo. Tutti questi composti sono naturalmente presenti in basse quantità all'interno dell'acqua, tuttavia in alcuni casi possono raggiungere e superare i livelli di soglia, allora in questo caso è necessario introdurre degli elementi di correzione e di addolcimento piuttosto che di depurazione. D'accordo. Fisicamente come è fatto questo oggetto? Guarda, l'oggetto è veramente molto semplice. Sono 5 provette. Il consumatore non fa altro che riempire di acqua. All'interno di queste provette ci sono delle strisce che cambiano colore a seconda della concentrazione del solfati, nitriti, nitrati, cloruri, della durezza e del pH. Dunque, come dobbiamo interpretare i risultati che vengono fuori da questa analisi, che insomma, diciamolo, comunque è un'analisi che non è precisa quanto quella che farebbe un laboratorio d'analisi? Assolutamente, noi infatti diciamo che è un kit fai da te, perché proprio come diceva lei nell'introduzione, molti di noi hanno una non giustificata considerazione della propria acqua del rubinetto, cioè di per sé noi diciamo l'acqua del nostro rubinetto è troppo dura, sa di cloro, è piena di questo, è piena di quell'altro. Nella maggior parte dei casi questo non è vero, l'acqua del rubinetto di ottima qualità, anche perché gli enti erogatori ne garantiscono loro stessi una qualità ottimale. Quindi quello che può accadere è che invece nella nostra rete domestica ci sia qualche piccolo problema. Bene, questo kit mira a verificare se ci sono questi piccoli problemi, dopodiché se l'acqua risulta contaminata da qualche sostanza, allora in questo caso è bene rivolgersi a delle autorità, a dei laboratori competenti per verificare meglio questa analisi. Magari si può anche mettere un addolcitore invece se viene fuori che l'acqua è molto dura, ma non ha altri problemi. Assolutamente, oppure si può ricorrere ai famosi rimedi della nonna, no? L'acqua sa di cloro, basta lasciare l'acqua decantare un attimino in una brocca e l'acqua sarà assolutamente in odore e di buona qualità. Perché il cloro evapora in pochi minuti. Assolutamente. Quanto costa questo kit? Dove si può trovare? Questo kit sarà in commercio proprio dai primissimi giorni del mese di gennaio, sarà disponibile inizialmente via internet con un commercio online, costerà poco più di 10 euro, penso intorno alle 13 euro e a breve speriamo di arrivare anche alla piccola media distribuzione. Va bene, allora, grazie Massimo Labra. Bravo. Prima di lasciarci è certamente il caso di ricordare che è sempre possibile applicare ai rubinetti e alle docce di casa dei regolatori di flusso oppure dei rompigetto. Si tratta di piccoli accessori dal costo di pochi euro che si adattano a tutti i rubinetti e a tutti i tubi flessibili come quelli della doccia. Fanno una specie di effetto seltz mescolando acqua e aria, grazie al quale il getto bagna molto bene pur utilizzando assai meno acqua. Quanto all'acqua di per sé stessa il risparmio è minimo dato il costo molto basso, anche se insomma bisogna a vedere come andrà a finire con la vicenda della privatizzazione che è cronaca di questi giorni. Considerate però che ogni volta che risparmiate acqua calda, ciò si traduce automaticamente in un risparmio di energia. Pensate che con questi accorgimenti una famiglia di 4 persone che fa 4 docce al giorno può risparmiare anche 200 euro all'anno. Questo è tutto, Mr. Kilowatt torna domani per parlarvi di un kit per analizzare l'acqua del rubinetto di casa. Che cosa c'entra con risparmio energetico? Lo scoprirete. Buona serata!